L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti, siamo pronti con il racconto dell'ultima settimana. Sette notizie divise per sette giorni, partendo come sempre da sabato scorso, 10 gennaio, per arrivare fino alla giornata di ieri, 16 gennaio. Il tutto scelto tra i servizi, le interviste e i commenti che sono già andati in onda nei GR di Radio 24. Sabato. Ancora una volta siamo costretti, purtroppo, a partire dalla terribile situazione a Gaza, che sembra peraltro peggiorare di continuo. Mentre in Italia si segnalano proteste contro Israele ampiamente deprecabili, sabato scorso abbiamo visto bandiere bruciate a Milano e a Torino e svastiche apparse sui negozi di Roma, l'offensiva a Gaza non si arresta. Questo è il quadro della situazione di sabato con Cristina Balotelli. Israele lancia la fase 3. Dai velivoli con la stella di David piovono su Gaza volantini in cui si dice che le forze armate stanno per entrare in una nuova fase nella lotta al terrorismo. E fonti militari annunciano che fino ad oggi sono stati uccisi 550 miliziani di Hamas. I razzi Qassam, però, e i missili Grad sono caduti lo stesso sulle cittadine israeliane del sud. Da Damasco il leader politico di Hamas, Khaled Meshal, ha ribadito che il suo movimento non accetterà mai una tregua se Israele non porrà fine alla propria offensiva e non riaprirà i valichi con Gaza. Così, per i civili di entrambe le parti, è stata ancora una giornata di paura e di corse verso i rifugi. Al Cairo si cercano soluzioni. Il presidente dell'autorità palestinese, Abu Mazen, che a Gaza è stato deposto da Hamas, chiede l'immediato cessate il fuoco e l'invio di una forza internazionale di pace. Ipotesi sulla quale si è soffermato anche il ministro Frattini. È una forza che non dovrà essere in territorio egiziano, dovrà essere in territorio palestinese. L'Italia è pronta a contribuire. Ed ora una testimonianza, quella di Noam Bedin, che vive a Sredot, la città israeliana più vicina alla striscia di Gaza. La distanza è minima, davvero pochissime centinaia di metri. L'intervista è di Cristina Balotelli. Vivo qui a Sderot da 2 anni e mezzo. Praticamente ogni giorno, da diversi anni, abbiamo la sirena che suona per avvertirci dell'arrivo di un razzo, subito seguita da un'esplosione. Ma questo non succede da 2 anni, succede da 8 anni. Negli ultimi 8 anni abbiamo avuto in totale oltre 10.000 razzi Qassam su Sderot e le altre località del Negev occidentale. Anche durante le precedenti tregue avete avuto lanci di Qassam? Sì, abbiamo avuto centinaia di attacchi anche durante i periodi di tregua, è corretto. La gente di Sderot come sta vivendo la situazione? In questo momento devo dire che qualcosa è cambiato a Sderot. Molta gente sta cominciando ad avere speranza perché per la prima volta intravede una luce alla fine del tunnel. Si ha la sensazione che qualcosa sia stato fatto, c'è un'operazione militare per prevenire il lancio dei razzi Qassam con l'obiettivo di fermarli del tutto finalmente. La gente di Sderot comincia ad avere speranze, a intravedere una luce, proprio come dicevo. Cosa insegnano ai bambini di Sderot gli insegnanti degli asili? I bambini nelle scuole e negli asili di Sderot imparano a nascondersi sotto i tavoli della classe appena suona la sirena e a cominciare a intonare canzoni per non sentire l'esplosione dei razzi. Inoltre, negli asili vengono addestrati a correre in direzione del rifugio più vicino o della cosiddetta safe room, la stanza antimissile. Poi cominciano il conto alla rovescia, 15, 14, 13, 12, e quando arrivano a zero cominciano a cantare. È come un gioco per loro. Mercoledì in realtà sembra aprirsi uno spiraglio. Hamas non respinge infatti ufficialmente il piano egiziano di tregua. I morti però salgono a 1.000 mentre torna la voce di Bin Laden che dalla rete invoca la guerra santa in Palestina. Poi giovedì nuovo precipitare degli eventi. Ancora un servizio di Cristina Balotelli. Gli spiragli che sembrava si aprissero al Cairo in realtà sono ancora segnali troppo deboli. Israele fa sapere di non aver ancora preso una decisione riguardo alla proposta egiziana per il cessate il fuoco. Poco prima si era diffusa la notizia di un sì con riserva, ma la fonte egiziana è stata subito smentita. Nella striscia è stata un'altra giornata di violenti combattimenti. L'esercito israeliano ha colpito la sede dell'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, i cui convogli erano già stati attaccati nei giorni scorsi. Tre proiettili al fosforo bianco hanno provocato un incendio, mentre nell'edificio avevano trovato rifugio 700 civili. Israele ha parlato di risposta al fuoco di miliziani di Hamas, che partiva proprio da lì. Anche nell'ospedale Al-Quds si è scatenato un incendio per le bombe. Bombe da un F-16 poi sulla casa del ministro dell'interno di Hamas, Siad Siam, morto sembra insieme a un figlio e a un fratello. Un omicidio mirato, operazione messa a punto dalle forze armate israeliane in collaborazione con l'intelligence. Ma altri razzi di Hamas sono continuati a cadere sulle città israeliane. Anche ieri sono proseguiti i raid israeliani a Gaza, mentre Hamas ha dettato le sue condizioni per arrivare al cessate il fuoco. Hamas chiede il ritiro di Israele entro 5 giorni dai territori di Gaza, al massimo una settimana. Da parte di Israele non è subito arrivata una risposta, invece un portavoce del governo di Olmert ha annunciato un viaggio a breve a Washington del ministro degli esteri Livni per trovare una posizione comune proprio con gli americani. Su quello che sta accadendo a Gaza, però, si è inserita in queste ore una polemica dai toni e dai contenuti, tutti tipicamente italiani. Al centro della scena, Michele Santoro. Sentiamo il servizio di Vincenzo Miglietta. È una polemica che si infiamma in poche ore, quella legata alla puntata di Anno Zero dedicata a quanto sta accadendo nella striscia di Gaza. Sotto accusa il battibecco tra Santoro e la Annunziata, con quest'ultima che abbandona la trasmissione in polemica con il conduttore. Ma non si accetta più, ma cosa dici? Ma basta, ma che cosa vuoi? Come basta? Stai acquisendo dei meriti nei confronti di qualcuno, dicendo queste cose. Allora, come ti permetti? Dile tue idee. Allora, parla delle tue idee. Solidarietà all'Annunziata arriva dal centrodestra, ha fatto bene, dice Berlusconi, speriamo, aggiunge il premier, che ora anche a sinistra capiscano come funzionano le trasmissioni di Santoro. Per il presidente della Camera Fini, invece, che chiama direttamente il presidente della Rai Petruccioli, nella trasmissione è stato superato il livello di decenza. Il programma replica Petruccioli merita critiche severe, il numero uno di Viale Mazzini rimanda il tutto al CDA. Di spettacolo vergognoso parla anche l'ambasciatore israeliano Meir. La replica di Santoro non si fa attendere, questa è censura, dice il conduttore. Al fianco di Santoro si schiera Rifondazione Comunisti e Donadi, Italia dei Valori. L'ottavo giorno. Domenica. Quella che si è appena conclusa è stata sicuramente una settimana politica, direi, succosa. Molte cose in evoluzione, dal decreto anticrisi al disegno di legge sulla sicurezza, poi c'è l'eterno tema che eternamente ritorna della giustizia e infine la questione della vigilanza RAI, ancora presieduta da Riccardo Villari. Domenica il Corriere della Sera pubblica una lettera dei capogruppo del Partito delle Libertà che invitano proprio il presidente della Commissione RAI a dimettersi. E proprio da Villari e tutto l'affare intorno a Villari, ma non soltanto, cominciamo con questo antipasto di Simone Spezia di inizio settimana. Il colpo di coda, Riccardo Villari prova a piazzarlo alle 19:30 quando fa sapere che la commissione di vigilanza RAI è convocata per giovedì alle 14 con un ordine del giorno che comprende tra le altre cose la nomina del consiglio d'amministrazione. Una riunione che, il presidente della commissione lo sa, sarà disertata dai due principali partiti, Popolo delle Libertà e Partito Democratico, che vogliono le sue dimissioni. La ripresa del dialogo passa anche da qua, da una richiesta di dimissioni comune, appunto, oltre che dai ripetuti contatti sulla giustizia e sulla legge elettorale per le europee. Tra le aperture e le proposte di Gianfranco Fini, in parte condivise anche dai magistrati, e lo stop di Silvio Berlusconi, il PD attende il Consiglio dei Ministri del 23 gennaio, che dovrebbe esaminare la riforma dell'ordinamento giudiziario. E su quel testo intende ragionare, anche se gli alleati dell'Italia dei Valori sollevano perplessità. Infine il capitolo legge elettorale. Centrodestra e centrosinistra starebbero avvicinandosi ad un accordo. Sul caso Villari è d'obbligo un aggiornamento, infatti giovedì si svolge, come peraltro da calendario, la seduta della vigilanza RAI. Ci sono soltanto 3 presenti, quindi siamo ben al di sotto del numero legale e quindi è inevitabile la sospensione della seduta. Se non che Villari, nonostante ancora una volta Fini e Schifani lo abbiano invitato a dimettersi, ha riaggiornato la seduta a martedì prossimo. Ma i problemi per il Parlamento, in particolare per la maggioranza, non si annidano soltanto in vigilanza RAI. Infatti nella settimana in cui in aula si discute il decreto legge anticrisi e anche il disegno di legge sulla sicurezza, martedì interviene duramente il Presidente della Camera. Sentiamo Elisabetta Fiorito. Ancora uno scontro tra il presidente della Camera Gianfranco Fini e il governo. Dopo lo screzio sulla tassa dei permessi di soggiorno, arriva quello sulla fiducia al decreto legge anticrisi. Il ministro dei rapporti con il Parlamento Elio Vito prende la parola nell'aula di Montecitorio e annuncia: nel momento in cui noi, per onore al Parlamento, per onore al governo, per onore all'importanza del provvedimento, abbiamo deciso di confermare la decisione di apporre la questione di fiducia, abbiamo anche deciso di apporla nel testo licenziato dalle commissioni bilancio e finanze. Immediata la risposta del presidente della Camera Fini: in tanti anni è la prima volta che ascolto una motivazione simile. È la prima volta che sento dire che viene posta la fiducia in omaggio alla centralità del Parlamento. Non si può liquidare con un omaggio alla commissione, salvo poi porre la questione di fiducia, impedendo di fatto ai deputati di pronunciarsi in aula. La fiducia era indispensabile, chiosa il premier Silvio Berlusconi, mentre il centro-sinistra replica: è stata messa perché il governo ha paura della sua stessa maggioranza. E scontro anche sul disegno di legge sulla sicurezza e soprattutto sulla contestata tassa sui permessi di soggiorno, su cui spinge molto la Lega. Mercoledì proprio su questo argomento prende posizione molto dura la CEI, come spiega questo servizio di Anna Rita D'Ambrosio. L'Italia ha bisogno degli immigrati, è l'opinione di Monsignor Gian Romano Gnesotto, responsabile per le politiche migratorie dell'Associazione della Conferenza Episcopale Italiana Migrantes. La presa di posizione è emersa alla presentazione della Giornata Mondiale delle Migrazioni il prossimo 18 gennaio ed il presule ha fatto esplicito riferimento alla tassa sui permessi di soggiorno contenuta nel decreto sicurezza. Inaccettabile una tassa che è meglio definire balzello nei confronti di una categoria che già ha molto da essere tutelata. Una puntualizzazione che ha meravigliato il ministro Maroni. Stiamo facendo solo quanto hanno già fatto da tempo gli altri paesi europei, ha replicato. Ma il mondo cattolico è contrario nel suo complesso. Anche al settimanale Famiglia Cristiana il provvedimento leghista non è piaciuto. Nell'editoriale in apertura del numero in edicola il giornale parla di scontro di civiltà in atto nel Parlamento e nelle piazze sull'accoglienza nei confronti di chi è nel bisogno. Giovedì è un piccolo giorno di svolta, infatti la Camera dice sì al decreto anticrisi e arriva anche il primo via libera dalle commissioni al testo sul federalismo fiscale. Sul versante della sicurezza invece tutto si blocca al Senato e la discussione viene rimandata al mese prossimo. Sentiamo Elisabetta Fiorito e poi i dettagli del decreto anticrisi nella scheda curata da Vincenzo Miglietta. Arriva alla Camera Silvio Berlusconi durante il voto di fiducia, arriva per frenare le divergenze all'interno della maggioranza, nessuna fibrillazione. Dice il premier che incassa il sì di Montecitorio sul decreto legge anticrisi e Berlusconi ricuce con il presidente della Camera Gianfranco Fini che aveva criticato il ricorso alla fiducia. Fini ha un ruolo istituzionale e intende bene questo ruolo istituzionale come un ruolo non partigiano, quindi ha ritenuto che fosse suo dovere di difendere alcune prerogative del Parlamento. Chapeau. Altro fronte è quello della Lega. Umberto Bossi spiega così perché il governo ha dovuto mettere la fiducia. Di solito la fiducia la mettono tutti i governi quando non vogliono storia. Nessun governo ama saltare per aria. Nel dubbio mette la fiducia. Altro fronte è quello della giustizia. Berlusconi accelera e vuole portare la riforma in Consiglio dei Ministri il 23 gennaio. Bossi risponde: per ora non c'è nessun accordo. Un provvedimento che vale 5 miliardi di euro con interventi in favore di imprese, autonomi e famiglie. L'IVA di cassa diventa strutturale, ritorna la rottamazione delle licenze commerciali, l'eco sconto fiscale al 55% per la riqualificazione energetica di edifici e appartamenti trova di nuovo spazio ma sarà spalmato in 5 anni. Sì allo stop poi alla commissione di massimo scoperto sui conti correnti bancari in rosso per un periodo continuativo non superiore a un mese. Il capitolo famiglie poi: per quelle che hanno diritto alla social card arriva un contributo per l'acquisto di pannolini e latte artificiale, slitta invece al 28 febbraio il termine per la domanda per il bonus famiglia. 20 milioni vanno per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. La porno taxi infine viene estesa a tutti i soggetti che utilizzano trasmissioni televisive o che usano i numeri telefonici a pagamento. Torneremo a parlare di economia italiana e internazionale ancora a fine puntata. Ora ci concentriamo sull'opposizione e i guai del figlio di Antonio Di Pietro, sanciti ufficialmente giovedì. Paolo Piacenza. Cristiano Di Pietro entra nel registro degli indagati dell'inchiesta Global Service di Napoli. L'accusa è pesante, corruzione, anche se gli stessi PM parlano di atto dovuto. La notizia è arrivata proprio al termine della giornata in cui Antonio Di Pietro si è presentato a Palazzo di Giustizia per chiarire le circostanze che riguardano lui e suo figlio, intercettato mentre parla con Mauro Mautone, l'ex provveditore alle opere pubbliche di Campania e Molise, indagato nell'inchiesta. 3 ore di colloquio in cui il leader dell'Italia dei Valori ha spiegato, documenti alla mano, che dietro al trasferimento di Mautone da lui stesso deciso nell'estate 2007 c'erano precisi accertamenti disposti dal Ministero su diversi dirigenti e non una soffiata sull'inchiesta napoletana. Una spiegazione che potrebbe aver convinto i magistrati, a cui l'ex ministro ha però chiesto di andare avanti. Indagare senza alcun riguardo per nessuno, perché non deve e non vogliamo che ci sia alcuna riserva nei confronti di parenti, figli compresi e esponenti di partito. Chiudiamo questa pagina sulla politica con il politico per eccellenza del dopoguerra italiano, amato quanto odiato ma sempre protagonista, Giulio Andreotti, mercoledì compie 90 anni. Ecco un ritratto firmato da Dario Ceccarelli. La paura fa 90, ma il divo Giulio, che proprio oggi festeggia il 90° compleanno concedendosi duetti di caramelle, non fa un plissé. E poi di che cosa può aver paura un uomo sulla scena politica da più tempo della regina Elisabetta, per ben 7 volte capo del governo, sospettato di un bacio galeotto con Totò Riina e che legge l'Osservatore Romano da quando ha 12 anni? Di nulla, ovvio. Potere o no, Giulio logora tutti. È sopravvissuto al 900, al fascismo, alla prima repubblica, al terrorismo, alla DC, al PC, alle vignette, a Buscetta, ai giudici e agli amici di partito, che come noto sono ben più pericolosi dei comunisti. Gli resiste solo Berlusconi, che quando sente parlare di Andreotti, toccandosi, telefona subito al suo famoso medico, che lo conforta dicendogli: tranquillo, è il fisico di un ragazzo. Dicono che Andreotti sia un cinico, un machiavellico, ma lui risponde: carognate non ne ho fatte. Dicono anche che il suo archivio, 3500 faldoni, sia il nostro armadio dei misteri, lo specchio dell'Italia. Dovrei guardarci, dice, facendo presagire chissà quali fuochi d'artificio. Ma poi, interpellato da infinite commissioni parlamentari, ogni volta spegne la miccia. Sulla sua lapide vorrebbe che fosse scritto: fatevi i fatti vostri. Qualcuno, infine, sogna che sui misteri d'Italia lui pronunci finalmente queste parole. Così, confesso, è stato anche per mia colpa, per mia grandissima colpa. Ma questo, ricordatevelo, è successo solo al cinema. Lunedì. Parte ufficialmente l'assalto della Ferrari al Mondiale di Formula 1 2009, dopo la vittoria l'anno scorso tra i costruttori e la sconfitta, ricorderete sicuramente, tra i piloti all'ultima curva nel Gran Premio del Brasile a favore di Hamilton e della McLaren, che da marzo, questo è l'annuncio di ieri, non avrà più alla sua guida Ron Dennis. Torniamo alla Ferrari perché al Mugello viene presentata la nuova vettura. A vederla per Radio 24 c'era Enrico Pagliarini. È una vettura totalmente diversa da quello che eravamo abituato fino all'anno scorso. Parole di Felipe Massa, che ieri per 100 km ha inaugurato la nuova F60. Il numero ci ricorda che quello che inizia in Australia il 29 marzo sarà il 60° mondiale per il cavallino. Vedremo di nuovo dopo 12 anni le gomme lisce, un profilo aerodinamico più pulito e senza strane appendici, un'ala anteriore più grande con assetto modificabile dal pilota e un alettone posteriore più stretto per attenuare l'effetto scia e favorire i sorpassi. Ma soprattutto il KERS, un sistema che trasforma l'energia cinetica della frenata in elettricità e regala al pilota 80 cavalli in più per 6 secondi ogni giro. Novità a effetto dei nuovi regolamenti pensati per dimezzare i costi e garantire maggiore spettacolo, ma che renderanno la vita più difficile a tutti i team, come ci dice il numero uno della gestione sportiva, Stefano Domenicali. Sarà una stagione molto difficile, complessa e complicata, perché è un progetto completamente nuovo, il motore che deve durare molto di più, il KERS, gomme slick, aerodinamica completamente diversa, quindi credo che sia un campionato difficile per noi e per tutti quanti. Nell'attesa di conoscere le prestazioni della F60, l'argomento di discussione sono anche le nuove forme della rossa numero 55 della storia del cavallino. Mi immaginavo questa volta arrivare qui, magari vedere una macchina un po' più brutta di quello che è sempre stato, invece ho trovato una macchina molto bella, speriamo che sia anche molto veloce da quello che è bella. Lo stesso giorno, martedì, Cristiano Ronaldo vince dopo il pallone d'oro anche il premio della FIFA, assegnato anche in questo caso per il miglior giocatore del 2008. Noi parliamo di calcio, ma di altro calcio, quello che passa dalle nostre parti in Italia, non soltanto però sui campi proprio di gioco. In campionato l'Inter perde 2 punti sulla Juve, che ora incalza a -4, ma la notizia più grossa viene dal mercato. Si tratta infatti di un clamoroso e forse non del tutto a questo punto impossibile trasferimento di Kakà dal Milan in Inghilterra. I particolari con Carlo Genta nel GR Sport di ieri mattina. Il Milan sta ponderando l'offerta del Manchester City per Kakà. È quanto rivelato da Milan Channel, il canale tematico rossonero. La faraonica offerta messa sul piatto dagli sceicchi proprietari del City, si parla di 120 milioni di euro, ha fatto traballare le certezze dei rossoneri, che finora si erano sempre rifiutati di considerare le offerte per il Pallone d'Oro 2007. Il portavoce del brasiliano ha detto che il club rossonero ha autorizzato Kakà a parlare con il Manchester City. Infine ancora Luciano Moggi fa parlare di sé. Tra pochi giorni si apre il secondo processo a suo carico, quello su Calciopoli, quello più importante peraltro delle pendenze nei suoi confronti, e Big Luciano definisce la sua strategia difensiva. Ce la racconta Dario Ricci. Affila le armi Luciano Moggi in vista del padre di tutti i processi su Calciopoli, quello che scatterà il 20 gennaio a Napoli. E allora Big Luciano, corroborato dalla mite condanna ricevuta nel processo di Roma sulla GEA World, che ha visto cadere l'ipotesi di associazione a delinquere, mette a appunto la strategia difensiva. Con un colpo a sorpresa, nella lista dei 498 possibili testimoni citati dall'ex direttore generale della Juventus c'è infatti anche il premier e patron del Milan, Silvio Berlusconi. Non vedo in cosa potrei essergli utile, ha glissato Berlusconi. Moggi ha anche citato praticamente tutti i presidenti delle squadre di Serie A dei campionati sotto l'obiettivo dei magistrati 2004-2005 e 2005-2006 e i vertici federali di allora. Lungo anche l'elenco dei testimoni dei PM Narducci e Beatrice, 108 tra cui gli allenatori Mazzone, Zeman, Ancelotti e Mancini. Il processo dovrà stabilire se esistesse davvero una rete di rapporti per garantire vantaggi illeciti alla Juventus attraverso la corruzione di arbitri e guardalinee. Sempre in tema di calcio, anche se la notizia sconfina nella cronaca nera, ieri l'agente di polizia Luigi Spaccarotella è stato rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio volontario per aver sparato l'11 novembre del 2007 al giovane tifoso laziale Gabriele Sandri. La decisione del GUP di Arezzo, che ha fissato la prima udienza di fronte alla Corte di Assise per il 20 marzo prossimo. L'ottavo giorno. Martedì. 13 gennaio 2009, una data da segnare e sicuramente da ricordare, perché partono ufficialmente i primi voli della nuova compagnia Alitalia Air France. Dopo mesi, anzi forse dopo anni di trattative, bracci di ferro e nelle ultime settimane la disputa sul partner straniero, finalmente la vicenda Alitalia arriva ad un punto. Sentiamo Vincenzo Miglietta. Un matrimonio da 322 milioni di euro che conferisce ad Air France KLM il 25% del capitale della nuova Alitalia. Un'alleanza questa di 8 anni che porterà sinergie per 720 milioni nel prossimo triennio. La partnership, ha spiegato il presidente Colaninno, garantirà un'assoluta autonomia gestionale di Alitalia rispetto al gruppo franco-olandese. Per i prossimi 4 anni, inoltre, i soci italiani potranno vendere azioni solo tra di loro e non ad Air France. Il capitolo aeroporti, poi, è confermata la priorità strategica su Malpensa, ha detto il numero uno di Alitalia. Ovviamente alla condizione di raggiungere un accordo su una razionalizzazione del traffico aereo su Linate. Confermo che in questa logica l'impegno di Alitalia e di Air France è di concentrare le rotte intercontinentali sull'aeroporto di Malpensa. Fiumicino, ha spiegato Colaninno, sarà il nostro hub per il Mediterraneo e per il Sud America. L'impegno poi della società sul fronte occupazionale. Questo è un punto di orgoglio che ci siamo presi, di riportare tutti quelli che oggi sono colpiti dalla cassa integrazione o dal precariato all'interno di Alitalia. Dall'amministratore delegato Sabelli infine un chiarimento: Air France è l'unica che si è fatta avanti, la Lufthansa invece non ha mai presentato un'offerta. Dopo i dettagli che ci ha raccontato Vincenzo Miglietta, veniamo ai commenti, e nessuno è più qualificato di Gianni Dragoni, il collega del Sole 24 Ore che da anni segue le vicende di Alitalia. Dragoni interviene martedì in diretta nel GR Extra Large. La sua analisi parte dal prezzo del biglietto aereo. Costa tanto il biglietto della nuova Alitalia perché non c'è più quella piccola concorrenza fatta sui voli. sui voli nazionali dall'Air One, che è stata assorbita. La Roma-Milano sono in vendita, basta guardare i siti, i biglietti solo a 340 euro circa, quindi un prezzo molto alto che è stato aumentato in questi mesi e poi non ci sono più gli sconti, almeno in questi primi giorni. Ma soprattutto costa molto anche per chi non prende l'aereo, per chi è contribuente, paga le tasse. Il costo dell'operazione Bad Company, dell'aver lasciato tutti i debiti e anche il costo degli esuberi, cassa integrazione che durerà fino a 7 anni, una cassa integrazione anche di lusso per gli stipendi di questo settore, 3-4 miliardi di euro complessivi, che significano un po' meno di 100 euro a persona. Se poi il conto esatto lo sapremo alla fine, per dare un'Italia pulita che poi la riprende l'Air France, si è caricato il costo sui contribuenti, sugli italiani, sugli vecchi azionisti dell'Alitalia. Oggi alcuni giornali francesi dicono grazie Silvio. Mentre partono i primi voli e non tutto fila liscio, come poi sentiremo tra pochissimo, la politica è ancora divisa sull'esito della trattativa e della vendita di Alitalia. Ancora un servizio di Vincenzo Miglietta. Un accordo assolutamente positivo che porterà l'Alitalia con Air France a diventare la compagnia più importante d'Europa. Nel giorno del decollo del nuovo vettore, Silvio Berlusconi rivendica i meriti dell'esecutivo e parla di un dossier ormai chiuso. Il premier nega poi qualsiasi contrasto con la Moratti e spiega Lufthansa voleva la maggioranza. Parole quelle del cavaliere destinate a tranquillizzare la sua stessa maggioranza, che vede la Lega ancora critica per le scelte di Colaninno e Sabelli. Il Carroccio, dopo la battaglia per Malpensa, annuncia intanto la difesa di Linate, così il capogruppo Bricolo. Una compagnia che vuole essere di bandiera non può partire andando contro il nord. La proposta su Linate è inaccettabile, commenta intanto il presidente della regione Lombardia Formigoni. Dal Popolo della Libertà replica Lupi. Abbiamo a cuore, perché non può che essere così, uno dei mercati più importanti e più floridi del nostro paese, che è il mercato del nord, che è rappresentato dell'aeroporto di Malpensa. Per l'opposizione l'intera vicenda che è stata gestita male, Bersani, Partito Democratico. Ci dica Berlusconi se dobbiamo pagare così cara una sua esigenza elettorale. E veniamo dunque alla cronaca della prima giornata ufficiale di voli targati Alitalia Air France. Non mancano proteste e disagi, il racconto è di Andrea Viali. I primi due voli, la Z676 da Milano Malpensa a San Paolo del Brasile e la P2853 da Palermo a Roma, sono partiti in perfetto orario alle 6:10. Ritardi e disagi non sono però mancati nel giorno del debutto della nuova Alitalia, soprattutto a Linate e Malpensa, dove in mattinata le proteste dei dipendenti preoccupati per il futuro dei due scali milanesi ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico aereo. Le conseguenze peggiori a Linate, dove alla fine molti voli hanno subito ritardi e 11 sono stati cancellati. La situazione è poi tornata alla normalità nel pomeriggio. È andata invece meglio a Roma, all'aeroporto di Fiumicino. Infatti, nonostante le proteste, c'è stato solo qualche ritardo e quasi nessun disagio per i passeggeri della nuova Alitalia. È andato bene, dai, guarda, davvero. Mai come questa volta, tutto a posto, non ho aspettato. Spero che funzioni tutto come dovrebbe. Mettiamo alla prova la nuova Alitalia. Mercoledì. Giuseppe Setola è stato appena arrestato dai carabinieri. Sono le 15:40 di mercoledì quando irrompe la notizia dell'arresto che avevamo appena risentito del boss e super latitante della camorra Giuseppe Setola. Solo due giorni prima, come peraltro ricordato anche dalla stessa Breaking News, era scampato clamorosamente alla cattura. Tutti i dettagli con la voce ancora di Raffaella Calandra. Dopo un'ultima disperata fuga, scalzo sui tetti, alza le braccia e ammette: avete vinto voi. La corsa di Giuseppe Setola, 39 anni e 18 delitti in 10 mesi, finisce a Mignano Montelungo, nel Casertano, dopo essere scappato attraverso le fogne. Finisce mentre era pronto a fuggire ancora, con armi, 200.000 euro e i medicinali per gli arti feriti. Evaso ad aprile da una clinica pavese dove era stato trasferito grazie ad una falsa diagnosi, dice Città, il più spietato boss dei casalesi era rimasto nella sua terra per ricompattare il clan, uccidendo in nome degli affari. Ora si fa a modo mio, non facciamo gli orefici, ripeteva ai killer prima di ordinare omicidi. Così, con un gruppo ristretto, racconta a verbale uno dei fedelissimi, spagnolo poi pentito, decise di incutere il terrore, emettendo sentenze a morte per imprenditori che non pagano, parenti di collaboratori e chiunque sgarrasse dalla sua legge, come i sei ghanesi uccisi a Castel Volturno. Nella latitanza, Setola era stato aiutato anche da un parente di un altro super ricercato, Iovine, come conferma il capo dell'antimafia di Napoli, Roberti. capo dell'ala bidognettiana del clan dei Casalesi. A questo punto in testa alla lista Iovine e Zagaria. Sono latitanti storici che bisogna assolutamente prendere. Setola era un'emergenza. Il cerchio attorno a Setola in realtà si stava stringendo sempre di più e da molto tempo. Basta riascoltare questo servizio del corrispondente Enzo Danna, andato in onda poche ore prima della cattura di Setola. L'operazione è scattata questa mattina a Casal di Principe, San Cipriano d'Aversa nel Casertano e a Cassino in provincia di Latina. Agenti della DIA e militari della Guardia di Finanza con l'ausilio della Polizia Penitenziaria hanno eseguito provvedimenti di sequestro di beni per un valore di oltre 10 milioni di euro riconducibili al superlatitante della Camorra, Giuseppe Setola. Si tratta di 4 ville, 3 appartamenti, di un bar, terreni e società, auto e moto riconducibili al boss dell'ala stragista del clan dei Casalesi. Tutti i beni sarebbero stati acquisiti attraverso il riciclaggio di denaro sporco, provento di estorsioni e tangenti. Autore di numerosi omicidi, Giuseppe Setola è considerato anche l'organizzatore della strage degli immigrati di Castel Volturno. Lunedì scorso era riuscito a sfuggire d'un soffio all'arresto. Il boss, individuato dalle forze dell'ordine nel suo covo a Trentola Ducenta, si era infilato in una botola, scappando attraverso i cunicoli fognari. E adesso un'altra storia di latitanza di un personaggio che nulla peraltro ha a che vedere con Setola. Sto parlando di Cesare Battisti. Si torna improvvisamente a parlare di lui con una lunga coda di polemiche che non si è certo placata in queste ore dal Brasile. Sentiamo Maria Luisa Pezzali e poi il commento di Daniele Biacchessi. Per il Brasile Cesare Battisti è un rifugiato politico, quindi questa la conseguenza non potrà essere estradato in Italia. È tradizione del Brasile concedere lo status di rifugiato ogni volta che riteniamo esista un fondato timore di persecuzione politica. Con queste parole il Ministero della Giustizia ha reso nota la decisione. Battisti, ex membro dei Proletari Armati per il Comunismo, condannato all'ergastolo in Italia per 4 omicidi commessi tra il 1977 e il 1979, era espatriato in Francia e poi in Brasile, dove è stato arrestato nel marzo del 2007. Attualmente è rinchiuso nel carcere di Papuda, a Brasilia. Se torno in Italia finisco morto, ha dichiarato proprio pochi giorni fa al settimanale brasiliano Epoca. La concessione dello status di rifugiato blocca di fatto l'iter dell'estradizione chiesta dall'Italia, che solo un mese fa sembrava ormai vicina. Una vittoria per i legali della difesa, coordinati da Luiz Eduardo Greenalg, esperto in diritti umani, amico di lunga data del presidente Lula, che hanno messo sul piatto il forte favore internazionale, francese specialmente, di cui gode Battisti. Cesare Battisti è un terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo, ricercato dalle autorità giudiziarie del nostro paese in esecuzione di sentenze passate in giudicato per 4 omicidi: il gioielliere Pierluigi Torregiani e il macellaio Lino Sabbadin a Milano e a Santa Maria di Sala il 16 febbraio del 79, il maresciallo degli agenti di custodia Antonio Santoro, Udine, 6 giugno 1978, l'agente della Digos Andrea Campagna, Milano, 19 aprile 1979. Battisti non è dunque un rifugiato politico. Non lo era negli anni 80 e 90 in Francia, quando, avvalendosi della discutibile dottrina Mitterrand, si era trasformato in uno dei più importanti giallisti europei. Non lo è neppure oggi in Brasile. Non è stato condannato, come lui sostiene, sulla base di una legislazione speciale sulla fede nelle dichiarazioni dei pentiti. Battisti era formalmente latitante, non si è mai presentato spontaneamente davanti ad un'autorità per ammettere le proprie colpe. È riuscito a farla franca soltanto grazie ai 1000 cavilli che regolano o non regolano le convenzioni tra stati in materia giudiziaria e allo scarso coraggio dei governi, di tutti, nessuno escluso, che non hanno saputo, potuto o voluto chiedere l'applicazione ferrea dei trattati. L'ottavo giorno. Giovedì. Ogni giorno, ormai da diverso tempo, facciamo i conti con proiezioni, stime, statistiche di carattere economico. Di solito tutti questi elementi si distinguono per il loro tono negativo e pessimistico. Insomma, c'è aria di crisi e non lo scopriamo certo oggi. Questo si verifica puntualmente anche giovedì con le previsioni per quest'anno di Banca Italia. Vincenzo Miglietta. Un anno, il 2009, di recessione con possibili effetti negativi sui conti pubblici, avverte la Banca d'Italia, sono stime realistiche ma premature, replica Tremonti. Fanno discutere le previsioni previsioni dell'Istituto di Via Nazionale sugli effetti della congiuntura internazionale. Meno 2% quest'anno per il prodotto interno lordo, una flessione questa, spiega Banca Italia, nonostante gli interventi del governo in favore della domanda e che farebbe seguito ad un PIL 2008 che in media viene indicato a meno 0,5%, sotto accusa la produzione industriale che segnerebbe a novembre un meno 6%. Per vedere il segno positivo davanti al PIL, dice l'istituto guidato dal governatore Mario Draghi, bisognerà aspettare il 2010. Di sole congetture parla tuttavia Tremonti, così il ministro dell'economia. Questo è un momento nel quale i dati e le previsioni sono uno strumento di conoscenza, ma non sono la conoscenza in assoluto. Sono delle ipotesi che vengono fatte su una realtà non ancora definita. Tremonti difende anche la tenuta dei conti pubblici che per Banca Italia invece potrebbero volgere al negativo. Via Nazionale prevede quest'anno un debito al 105% e un deficit al 2,6%. Nelle stesse ore la Banca Centrale Europea interviene sui tassi di interesse, oramai non è quasi più una notizia vista la frequenza sempre più ravvicinata di queste iniziative. Da Francoforte il servizio di Beda Romano. In 3 mesi la Banca Centrale Europea ha allentato il credito come non mai in questi 10 anni di unione monetaria. Oggi il costo del denaro è al 2% dal 4,25% in ottobre. La situazione economica è peggiore del previsto, la recessione è profonda e l'inflazione è in evidente calo. Il presidente della BCE, Jean-Claude Trichet, non ha nascosto la sua preoccupazione e ha lasciato intendere che nuovi ribassi al costo del denaro sono probabili, forse non in febbraio, ma quasi certamente in marzo. Il momento è pessimo e i banchieri centrali ne sono pienamente consapevoli. Tutto sta nel capire a questo punto fino a che livello potrebbe giungere il costo del denaro. La BCE ha ammesso di non voler cadere nella trappola della liquidità, nella situazione in cui una banca centrale, pur tagliando i tassi di interesse a livello bassissimo, non riesce più a stimolare l'economia e perde il controllo della massa monetaria. E adesso torniamo indietro di 2 giorni a martedì, quando esce l'ennesima classifica che colloca l'Italia sempre più in fondo al gruppo. Prima Valeria De Rosa e poi il commento del direttore di Radio 24, Gianfranco Fabi. Arretriamo. Sarebbe più corretto dire che precipitiamo al 76esimo posto nella classifica della libertà economica. Ma trattandosi di una classifica che come tale fornisce una visione sintetica e non puntuale della realtà, va presa con le pinze. L'Italia è libera al 61,4%, moderatamente libera quindi, perché molto vicina al limite del 60%, al di sotto del quale inizia la categoria dei paesi poco liberi. Parliamo dell'anno 2007 e dunque non si tiene conto della crisi economica e della necessità di interventi statali per stabilizzare i mercati. Però se in termini di libertà di impresa, di scambio e di investimento l'Italia raggiunge un punteggio elevato, la stessa cosa non può dirsi per i diritti di proprietà e la libertà dalla corruzione, anche se il vero tallone d'Achille resta la libertà dallo Stato, con un settore pubblico ingombrante e operazioni di cui non si può ancora valutare la portata, come spiega Alberto Mingardi, direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni. Incide molto negativamente l'incertezza di una privatizzazione mal condotta, qual è la vicenda dell'Italia. Riguardo alla certezza che lo Stato produrrebbe in momenti di crisi come questo, bisogna cercare di avere il più possibile un orizzonte di lungo periodo. Una premessa: abbiamo una grande stima delle fondazioni americane, del Wall Street Journal e dell'Istituto Bruno Leoni. Ma in questo caso, vedere l'Italia al 76esimo posto nella classifica della libertà economica non può che suscitare qualche perplessità. E insieme è doverosa qualche riflessione. La perplessità nasce non tanto perché siamo al livello del Madagascar, quanto perché questo risultato negativo è dovuto a un elemento, come il peso dello Stato nell'economia, che in questa fase di difficoltà economiche costituisce invece un fattore fondamentale per rimediare almeno in parte alle difficoltà che sono nate dalla profonda crisi del settore finanziario. E qui nasce la riflessione. Se la presenza dello Stato resta fondamentale, è necessario tuttavia evitare che si moltiplichino le formalità burocratiche, le complessità amministrative, gli sprechi nella spesa pubblica. Prendiamo quindi queste classifiche con la dovuta libertà. Il problema non è in essere in alto o in basso, prima o dopo. Il problema è che la libertà è il motore fondamentale della società e dell'economia. Ringraziamo allora chi ci ricorda che di libertà vera non ce n'è mai abbastanza. Venerdì. Con il nostro racconto adesso ci trasferiamo negli Stati Uniti e idealmente ci proiettiamo a martedì prossimo, 20 gennaio, il gran giorno del giuramento di Barack Obama come 44esimo presidente degli Stati Uniti. Un evento imperdibile al quale peraltro Obama arriverà ripercorrendo in treno il mitico tragitto da Philadelphia a Washington di Abramo Lincoln, e sarà identico anche il menù proprio di quello straordinario avvenimento con Lincoln presidente. Tanti VIP che saranno presenti alla cerimonia di Obama, ma anche milioni di persone semplici comuni per le strade. Sentiamo Sergio Nava. A new birth of freedom, una nuova alba di libertà. È con questo motto che si apre martedì la presidenza di Barack Obama, 44esimo leader americano, che si terrà, come tradizione vuole, ai piedi del Campidoglio a Washington. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. Esattamente come fece 48 anni fa JF Kennedy, anche Obama giurerà usando la consueta formula. Giuro solennemente che svolgerò fedelmente l'incarico di presidente degli Stati Uniti e preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione al meglio delle mie possibilità. I, William Jefferson Clinton. State ora ascoltando un altro storico giuramento, quello di Bill Clinton, anno 1993. La cerimonia di insediamento presidenziale si inserisce all'interno di una settimana di feste con parate e serate di gala. Il 20 gennaio, dopo una funzione religiosa al mattino, la cerimonia arriverà al proprio culmine col giuramento alle 12 locali, le 18 in Italia e col discorso programmatico del neopresidente. Martedì è attesa una partecipazione record di pubblico per un insediamento che si annuncia indimenticabile. I, George Walker Bush, do solemnly swear. Do solemnly swear. Obama giurerà come il suo predecessore Bush con i suoi tre nomi, Barack Hussein Obama. Ironia della storia per un cognome che ne evoca un altro, quello dell'ex presidente iracheno che proprio Bush depose e fece giustiziare. Nei corsi e ricorsi storici si intreccia anche una ricorrenza, quella del 200° anniversario dalla nascita di Abraham Lincoln, una figura di riferimento per tutta la campagna elettorale di Barack Obama. Per un presidente che entra ce n'è uno che esce dalla Casa Bianca dopo 8 anni lunghi, faticosi e molto contestati. Giovedì il congedo ufficiale di George W. Bush. Da New York il servizio di Mario Platero. Un discorso di addio, quello di ieri notte di George Bush agli americani, lo ha pronunciato dalla Casa Bianca, dall'East Room, un discorso commosso naturalmente di circostanza, con una serie di sottolineature importanti per questo presidente criticato in uscita dopo 8 anni alla guida del paese. Il presidente ha voluto difendere le sue azioni e soprattutto il fatto che durante il suo mandato gli Stati Uniti non hanno sofferto un attacco dopo quello devastante dell'11 settembre. C'è un dubbio legittimo, ha detto Bush, su quante delle mie decisioni potessero essere giuste. Però ci sono pochi dubbi sui risultati. L'America, dopo 7 anni, è più sicura di quanto non fosse prima. Il presidente si è congedato ammettendo alcuni errori e ringraziando il pubblico, circa 200 persone, famiglia, amici, membri del suo ministero e soprattutto gli americani. Dagli Stati Uniti in questi giorni sono rimbalzate anche altre due notizie in particolare, una volta tanto non connesse direttamente all'elezione di Obama. La prima riguarda purtroppo le gravi condizioni di salute di Steve Jobs. Sentiamo Enrico Pagliarini. La notizia è arrivata via mail poche ore fa ai 31.000 dipendenti della Apple, un messaggio nel quale Jobs ammette che i problemi di salute sono più complessi del previsto e forse vanno oltre quello squilibrio ormonale annunciato il 5 gennaio per tranquillizzare dipendenti, investitori, appassionati dei prodotti Apple e cercare di ridimensionare le voci di un ritorno del tumore. Jobs, che oggi ha 53 anni, è stato infatti operato 5 anni fa di una rara forma di cancro al pancreas e in rete questa ipotesi non si è mai attenuata. Anche se dall'azienda fanno sapere che Jobs resterà comunque coinvolto nelle decisioni più importanti, la preoccupazione ha fatto crollare i titoli Apple del 10% nelle contrattazioni after hours del Nasdaq. Steve Jobs è considerato l'anima dell'azienda e l'ideatore di molte delle novità che Apple ha presentato al mercato negli ultimi anni. Una sua uscita di scena potrebbe creare seri problemi alla società che lui ha cofondato nel 1976. La seconda notizia targata USA della settimana, che in questo caso ha davvero del sensazionale, è di un incredibile ammaraggio di un aereo della US Airways. Sentiamo il racconto di Anna Rita D'Ambrosio. Sono molto spaventato in questo momento, ma sono in piedi sulle mie gambe. È la voce di uno dei 150 passeggeri del volo 1549 da New York a Charlotte, nel North Carolina, uno dei sopravvissuti al tremendo ma fortunato impatto nelle gelide acque dell'Hudson, ieri, quando in Italia era già tarda sera, pomeriggio, a New York. Solo 6 minuti è durato il viaggio dell'Airbus A320 della US Airways, che poco dopo il decollo dall'aeroporto La Guardia ha incontrato uno stormo di oche sulla sua traiettoria. L'impatto con le turbine ha messo fuori uso entrambi i motori. Bravissimi i piloti riusciti a controllare il velivolo nonostante l'avaria, compiendo uno straordinario ammaraggio di emergenza nella baia all'altezza della 42esima strada. Entrambi i motori erano in fiamme al momento dell'atterraggio, una manovra prodigiosa dinanzi agli occhi di centinaia di testimoni che hanno poi, con il fiato sospeso, assistito alle tempestive manovre di soccorso. Tutti sulle ali i passeggeri, infreddoliti ma salvi. Ancora non realizzo che sono in piedi sulle mie gambe, che sono uscito da quell'aereo. Grazie, grazie, che Dio ti benedica. Prima di chiudere ci manca l'ottava notizia, che ci riporta ai lidi italiani e alla lotta senza quartiere tra i palinsesti Rai e Mediaset. Lunedì scorso, tra titani unani, scegliete voi, c'è la grande sfida tra Grande Fratello contro X Factor, all'insegna dei reality. Sentiamo il commento di Marta Cagnola. Allora non era vera crisi. La stagione televisiva 2009 inizia all'insegna dei reality show. Ieri, per Mediaset, è iniziato il cosiddetto periodo di garanzia, cioè quella fascia temporale entro cui le emittenti televisive garantiscono agli investitori pubblicitari una certa garanzia di risultati in termini d'ascolto. Per la Rai partirà il 1 febbraio. Ma la guerra è iniziata ieri sera con Grande Fratello 9 contro X Factor 2, che si definisce talent show, ma che dei reality ha tutta l'aria. Buonasera a tutti e benvenuti al Grande Fratello. Benvenuti alla seconda bellissima edizione di X Factor. Diciamo subito che ha vinto il Grande Fratello. 5.674.000 telespettatori con il 26,50%. X Factor 14,37% di share e 3.146.000 spettatori. Ottimo risultato comunque per Rai 2, più dell'ultima puntata della scorsa edizione, che era partita decisamente male. Ciao, sono Daniela, ho 35 anni, sono di Roma. Mi avete conosciuto con questo cappio durante le proteste all'Italia e io l'ho indossato per lanciare un segnale forte per la protesta. Se fossi qui con me questa sera. Lo scontro coinvolgeva due prime donne, Marcuzzi e Ventura, ma soprattutto due corazzate produttive, Endemol e Magnolia. E dire che l'anno scorso lo stesso Pier Silvio Berlusconi aveva annunciato che nei reality non credeva più. La sua corrida però sabato è stata battuta all'esordio dal VIP reality Ballando con le stelle, anche se Milly Carlucci ha il cast più debole di tutte le edizioni precedenti. Buoni ascolti in casa Mediaset invece per la corazzata di Amici, anche lui tra reality, talent show e varietà, pomeriggio, sera, domenica e satellite. Ma non finisce qui. Tra quanto vedremo la fattoria? Fine febbraio. Massimo primi di marzo. Guilty pleasure, piacere inconfessabile per eccellenza, nessuno ammette di amarli, saranno i telecomandi che girano da soli il canale. È tutto anche per questa puntata dell'Ottavo Giorno. Vi ricordo la mail a cui potete scriverci: ottavogiorno@radio24.it. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia. Da parte di Emiliano Enrico, l'appuntamento è alla settimana prossima, alla stessa ora, sempre su Radio 24.